venire più avanti a farci compagnia, non avete paura. Le prossime canzoni sono due pezzi che parlano d'odio e amore. Basta giocare a calcetto. Dai, è ora di sudare un po', è iniziata l'estate. Dai ragazzi, basta stare seduti, tutto l'anno che ci sediamo, corriamo di fretta, di corsa. Dai! Trovo scomodo ma dopo un po' mi piace. Ma è già da tempo che, è già da tempo che zero parole per conoscerti, poche parole per uccidermi. Mi trovo scomodo ma dopo un po' mi piace. Ma è già da tempo che, è già da tempo che io vorrei. Zero parole per conoscermi, mille parole per confondermi le idee. Mi trovo scomodo ma dopo un po' mi piace. Ma è già da tempo che, è già da tempo che era zero.